America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti allo speciale di America 24. Oggi cominciamo. Prima Barack Obama ha vinto contro Mitt Romney, è stato confermato alla Casa Bianca per altri 4 anni, un'elezione storica del presidente americano, perché è avvenuta in un momento di crisi economica, in un momento in cui il tasso di disoccupazione è fermo al 7,9%, non è mai successo prima. Sentiamo il presidente nel suo discorso della vittoria. Tonight, more than 200 years after a former colony won the right to determine its own destiny, the task of perfecting our union moves forward. It moves forward because of you. It moves forward because you reaffirmed the spirit that has triumphed over war and depression, the spirit that has lifted this country from the depths of despair to the great heights of hope. The belief that while each of us will pursue our own individual dreams, we are an American family and we rise or fall together as one nation and as one people. Un discorso, devo dire, molto ispirato, travolgente, un discorso bellissimo che forse avremmo voluto ascoltare alla convention di Charlotte o in altri appuntamenti elettorali. Eppure con la vittoria di ieri Barack Obama ha ritrovato la sua grinta di un tempo. Nell'estratto che vi ho fatto ascoltare dice: questa notte, 200 anni dopo che una ex colonia si è guadagnata il diritto di determinare il suo destino, il compito di migliorare la nostra unione avanza, moves forward. Forward, ve lo ricordo, era il tema, lo slogan della sua campagna elettorale. Tonight, in this election, questa sera, continua Obama, in questa elezione, voi gli americani ci avete ricordato che se la nostra strada è difficile, il nostro viaggio lungo, abbiamo sempre trovato il modo di rialzarci, di combattere, di recuperare il nostro cammino, e sappiamo nei nostri cuori che il meglio per gli Stati Uniti d'America deve ancora venire. Ecco, un discorso davvero importante dopo una notte difficile, dopo una campagna delicata, complicata e dura, perché a un certo momento sembrava quasi che Barack Obama potesse anche non farcela dopo la debacle del suo primo dibattito. Ieri notte è partita in modo incerto, i due candidati sembravano essere molto vicini al 50% anche negli stati chiave, poi a un certo punto qualcosa si è sbloccato, si è capito che Barack Obama era in avanti un po' dappertutto, e quindi anche un paio d'ore prima della conferma ufficiale della sua vittoria si è capito che la sua marcia era inesorabile e che per Mitt Romney sarebbe stato quasi impossibile recuperare il terreno perduto. Chi ci ha seguito ieri notte nella diretta che abbiamo fatto da New York con gli studi a Milano avrà seguito passo passo questa evoluzione, devo dire, davvero emozionante. A questo punto i giochi sono fatti, resta il futuro. Nel suo discorso il presidente Barack Obama ha anche aperto ai repubblicani, ha detto: dobbiamo aprire un dialogo, dobbiamo risolvere i problemi che sono aperti. Ha detto che si vedrà anche con Mitt Romney, il candidato repubblicano che ha sconfitto. I wish all of them well, but particularly the president, the first lady and their daughters. This is a time of great challenges for America and I pray that the president will be successful in guiding our nation. C'è stato un momento in cui sembrava che Mitt Romney potesse anche così, come dire, trovare qualche cosa da ridire sui risultati di alcuni stati, perché le differenze fra lui e Barack Obama erano davvero minime, dunque si poteva anche contestare il voto, si poteva chiedere un nuovo conteggio, ma Mitt Romney, un uomo tutto d'un pezzo di straordinaria integrità morale, in realtà ha capito che il risultato era quello che era, lo ha accettato. E dunque avete sentito il suo discorso in cui ha dato la concessione della vittoria a Barack Obama. Anche lui ha usato termini conciliatori, ha detto: a questo punto la campagna è chiusa, io prego perché il presidente possa risolvere i problemi con i quali si confronta il nostro paese. Ecco, ho ancora con me ai microfoni di America 24 Christian Rocca, Christian che ha gli occhi un po' lucidi. Christian, abbiamo passato diciamo così, lunghe ore a questi microfoni. È stata però una serata entusiasmante, o no? Sì, ci devono fare perlomeno, non so, ministro dell'agricoltura o dei trasporti, visto l'impegno che abbiamo messo. Dove? In Italia o negli Stati Uniti? No, negli Stati Uniti, in Italia per carità. Ecco, Christian, dicevo, è stato un risultato non necessariamente scontato, o meglio, negli ultimi giorni, nell'ultima settimana della campagna elettorale, Barack Obama si è tirato su. Secondo me, e vorrei sapere poi tu cosa ne pensi, c'è stato un percorso molto preciso che parte con la fine del terzo dibattito, quando Barack Obama sembra in qualche modo essere un po' sgradevole, aggressivo nei confronti di Mitt Romney, che invece fa un passo indietro. Ecco, la mia impressione è che quel passo indietro di Romney, che poi ha avuto un seguito nei giorni successivi, quando Barack Obama ha continuato a colpire, ad essere aggressivo, mentre Mitt Romney cercava di preservare il vantaggio che aveva accumulato dopo il primo dibattito, ecco, quella scelta strategica può essere costata carissima al candidato repubblicano, perché Barack Obama si è portato in avanti subito in alcuni sondaggi nel fine settimana prima di Sandy, poi c'è stato Sandy, subito dopo Sandy in cui Barack Obama ha perso il presidenziale è intervenuto l'incontro con Chris Christie, il governatore repubblicano del New Jersey, questo abbraccio con questo suo concorrente in teoria, perché appoggiava Mitt Romney, e Christie che dice con questa amministrazione si lavora meravigliosamente. Ecco, credi che sia stato quello il momento chiave in cui Barack Obama si è tirato fuori dalle secche in cui sembrava essersi incagliato? Sì e no. Sì, perché effettivamente era in corso una rimonta di Mitt Romney, iniziata nel primo dibattito tra i due candidati, quello di Denver. No, perché in realtà da almeno un anno, cioè da quando si sa che lo sfidante sarebbe stato Mitt Romney, tutti i sondaggi erano unanimi nel prevedere una vittoria di Barack Obama. Erano unanimi a livello nazionale, erano unanimi nei famosi stati decisivi, quelli un po' più vicini, dove i due candidati sono più vicini. E questa cosa è stata costante prima delle primarie, durante le primarie, dopo le primarie, quando Mitt Romney ormai era da solo lo sfidante. Sempre è stato così. C'è stato soltanto un cambiamento dopo questo dibattito di Denver, dove è iniziata la rimonta. È iniziata la rimonta e qualcuno ha creduto che potesse addirittura superare il presidente, ma effettivamente lì Sandy, l'uragano, è intervenuto, che ha fermato il momentum, come si dice usando un gergo politico americano, dello sfidante repubblicano, perché si è parlato per alcuni giorni d'altro e non di politica, e quindi lì si è fermata la cosa. Alla fine, finito Sandy, finito l'uragano, si è tornati esattamente alla posizione precedente il primo dibattito di Denver. Ecco, torniamo al presente, anzi al futuro. Tu condividi il fatto che questo discorso di Obama è stato un discorso travolgente? Ecco, che impressione ti ha fatto questo presidente che sembrava aver perso lo smalto? Lo ha ritrovato? Diciamo che ha avuto ragione lui, perché ha vinto, e ha vinto in modo così, diciamo, anche eclatante. Però a noi era mancato, diciamo, da osservatori della politica, l'Obama di 4 anni fa, l'Obama del 2007 che ha vinto le primarie contro Hillary Clinton, e poi l'Obama che ha vinto contro John McCain le primarie. L'Obama ispirato, l'Obama lirico, l'Obama che faceva sognare, l'Obama che parlava di cambiamento. Quel candidato non c'è più stato durante questa campagna elettorale. Lui ha condotto una campagna astiosa, incattivita, infastidita, volta soltanto a descrivere l'avversario Mitt Romney come un estremista di destra. C'è riuscito, peraltro, lo ha descritto, lo ha messo all'angolo fino al famoso dibattito di Denver, però appunto non era l'Obama di un tempo. Stasera è tornato quello lì. Ecco, ha anche detto Barack Obama a un certo punto di aver imparato molto da questa campagna elettorale. Qualcuno ha letto in questa sua dichiarazione che forse può aver imparato qualche cosa dal punto di vista dell'umiltà. Era stato attaccato il presidente molto dal punto di vista del rapporto umano. Si diceva che era poco umile, che era arrogante, si diceva che non aveva una grande comunicativa. Rapidamente, in pochi secondi, la tua impressione è che Barack Obama sia davvero cambiato? Io come dire, l'ho sentito cambiato, sembrava, come dire, essere pronto, a, come se fosse stata una specie di redenzione, che si è reso conto di aver rischiato moltissimo e di essere pronto all'apertura. Sono d'accordo, mi è sembrato anche emozionato, alla fine aveva anche la voce rotta dalla commozione, quindi certamente qualcosa c'è, qualcosa l'ha cambiato, ma in realtà quello è un messaggio politico, lui lo ha fatto perché deve affrontare adesso delle sfide molto importanti. America 24. Buongiorno, rieccoci con lo speciale Lezioni Americane di America 24. Per chi si fosse collegato soltanto adesso, abbiamo fatto ascoltare uno spezzone del discorso entusiasmante del presidente Barack Obama. Sono qua in studio a New York con Christian Rock. Abbiamo passato la notte a seguire gli sviluppi di questa elezione americana, un'elezione devo dire interessantissima sia nelle fasi delle primarie che in quelle della campagna vera e propria, che infine in questa serata di ieri che è stata davvero emozionante. Christian, stavamo ragionando prima sul quoziente di umiltà di questo presidente americano. Ecco, l'umiltà, la comunicativa è fondamentale in un leader politico. Il grandissimo maestro, devo dire, è Bill Clinton. Bill Clinton, al quale tra l'altro Barack Obama deve moltissimo. Barack Obama ha ringraziato nel discorso di ieri la sua squadra politica, ha ringraziato la moglie, ha ringraziato tutti, ha fatto una telefonata a Bill Clinton. Bill Clinton, ripeto, un modello che dovrebbe essere preso ad esempio da Barack Obama, perché è stato l'uomo del compromesso, è riuscito a dialogare con i repubblicani, con repubblicani duri, difficili, è riuscito a far fare dei passi in avanti importanti al paese, ha tagliato il disavanzo pubblico di 500 miliardi di dollari e ha alla fine presenziato a un periodo rinascimentale per gli Stati Uniti in cui esplosa internet, esplosa l'economia americana, si sono creati 20 milioni di posti di lavoro. Ecco, domanda, Christian, il Barack Obama del secondo mandato sarà più come Bill Clinton o sarà una versione, diciamo, modificata del Barack Obama più difficile che abbiamo conosciuto nel primo mandato? Guarda, sul fronte dei posti di lavoro, che poi è la cosa importante che ha determinato anche il risultato di queste elezioni e che interessa gli americani, questa mattina sul Sole 24 Ore ho fatto un'analisi su questo punto, citando tre paper che sono molto diffusi, diciamo, tra gli economisti in questo momento, che sostengono questa tesi, sono stati scritti prima delle elezioni, dicevano: chiunque sarà eletto, quindi non importa se Obama o Mitt Romney, nei prossimi 4 anni saranno creati quasi 12 milioni di posti di lavoro, a prescindere dalle politiche e dal segno politico di chi è alla Casa Bianca. E ovviamente chi sarà eletto, in questo caso è stato eletto Obama, sarà molto fortunato e sarà considerato un genio, perché appunto poi passerà alla storia come Bill Clinton, come quello che ha portato tutti questi posti di lavoro. Ma in realtà i posti di lavoro non vengono creati da un presidente, ci sono delle congiunzioni economiche che portano questo. Quindi, allora, sotto questo punto di vista c'è molto ottimismo. Per il resto Obama secondo me sarà più libero in questo secondo mandato, perché non dovrà essere più eletto, non dovrà essere sottoposto più al voto elettorale, e per cui verrà fuori l'Obama pensiero, verrà fuori la sua ideologia. Il problema è che forse non sappiamo cosa è, chi è davvero Obama, se è un ideologo di sinistra come lo accusano quelli di destra, o se è un moderato pragmatico e centrista. Ecco, in questo discorso Barack Obama ha anche risposto, secondo me, a tutti coloro che parlano del declino americano, del fatto che l'America non è più il paese di un tempo, non ha più quella leadership di cui godeva fino ad alcuni anni fa. Ecco, c'è qualche cosa di vero in questo dal punto di vista economico. Ci sono quattro punti con cui l'America si deve confrontare guardando in avanti. Intanto il problema del disavanzo pubblico e del debito, il problema del rapporto con l'Europa, perché l'America in qualche modo dipende dall'Europa, il problema della Cina, c'è un nuovo leader che si insedierà oggi, tra oggi e domani, a Pechino, Xi Jinping, e c'è anche un problema di regole che non sono state terminate, regole per il settore finanziario. Ci sono numerose sfide, a parte quelle poi dell'immigrazione, di cui Barack Obama ha promesso di occuparsi, e di altre riforme che il paese attende da tempo. Ecco, prendendole una per una, ma senza esaminarle nel dettaglio e partendo dalla più importante, sulla questione del disavanzo pubblico, del fiscal cliff, della rupe fiscale, su cui repubblicani e democratici si sono davvero accapigliati per una questione ideologica. I repubblicani non vogliono che ci siano degli aumenti di tasse, li escludono nel modo più assoluto. Barack Obama è disposto a fare delle concessioni sulle spese sociali solo in cambio di aumenti di tasse per i più ricchi. Ecco, tu credi che si arriverà a un compromesso ragionevole che tutti ci aspettiamo? Intanto speriamo che tra i punti principali non ci sia, diciamo, una tensione maggiore con l'Iran, perché quella è un'altra questione molto decisiva. Io credo che un compromesso ci sarà. La stessa offerta a Romney di incontrarlo nei prossimi giorni per vedere come poter affrontare le sfide del futuro è volta al raggiungimento di un compromesso, dove secondo me si troverà sul punto delle tasse, perché sia Obama che i repubblicani sono favorevoli alla diminuzione delle tasse per la middle class. La differenza è soltanto su una parte piccola dei tagli fiscali che fece Bush e che furono confermati anche da Obama su chi guadagna più di $250,000. Quindi l'accordo sul debito e sulle tasse sono convinto che si troverà. Non credo che ci saranno problemi, però la cosa importante è aver ritrovato col discorso di ieri notte l'Obama delle origini, il presidente che credo potrà rinnovare la leadership degli Stati Uniti e rilanciare l'idea di un nuovo secolo americano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Lo abbiamo visto dalle lezioni entusiasmanti di ieri notte. Queste notizie continuerete a trovarle su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. The best is yet to come. Il meglio è ancora davanti a noi, ha detto Barack Obama, è una cosa in cui gli americani nel loro smisurato ottimismo credono moltissimo, e grazie a questo credo poi riescono davvero a dare concretezza alle cose, alle loro missioni. E dunque di Frank Sinatra una vecchia canzone che dedichiamo al presidente americano Barack Obama. The best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started in to hum. Still it's a real good bet, the best is yet to come. Best is yet to come, and babe, da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!